Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Meris. Questa sera torneremo a parlare del ruolo che i cittadini devono avere nel disegnare i nuovi servizi che le città intelligenti dovranno mettere in futuro a disposizione di tutti. Di questo tema della partecipazione, soprattutto attraverso la rete e della possibilità di quindi prendere decisioni dal basso, di raccogliere suggerimenti che vengono dal basso, si parla moltissimo. Ma ad oggi che soluzioni ha realmente prodotto? Su che cosa è più importante che i cittadini si esprimano e in quali circostanze questa possibilità di esprimersi è portatrice di innovazioni rilevanti? E quanto si stanno domandando appunto all'interno del progetto Trento Rise, diretto da Paolo Traverso, che è stato intervistato dal nostro Federico Pedrocchi. Sentiamo com'è andata. Bisogna far partecipare la gente. Al momento, ad oggi, abbiamo degli esperimenti che però, a mio parere, sono un po' di basso profilo, nel senso che mi pare di capire anche dal suo intervento che qui ci vuole una grossa sperimentazione, perché se far partecipare la gente vuol dire che con uno smartphone segnalano dove ci sono le buche nelle strade, ok ragazzi, però è veramente poco. Certo, far partecipare la gente è veramente, io credo che la via sia quello proprio che diceva lei delle grandi sperimentazioni. Perché se esattamente noi andiamo a dire, vabbè, cos'è utile? Sì, sono le buche per le strade, sono utili sapere dove sono, è una bella cosa e tutto quanto. Però quali sono i problemi veri delle persone? Quali sono? Allora, sui problemi veri delle persone, andando subito a dare loro degli strumenti per poter usarli subito, all'inizio, fatti in un modo molto veloce, in modo che loro li usino per capire veramente quali sono le cose che le cambiano la vita. Forse non sono le buche per le strade a quel punto, forse sono i problemi che ci sono sul lavoro, forse sono problemi che ci sono di accettazione di diverse comunità all'interno di una città intelligente. Ecco, allora, andando a fare queste sperimentazioni molto diffuse che coinvolgono le istituzioni, che coinvolgono larghe comunità, non si può fare la sperimentazione su 10, 20, 100 persone, bisogna farle su grandi comunità. Questo è l'obiettivo di Trento Rise. A questo punto noi l'obiettivo è proprio puntare a fare dei servizi. Uno quando arriva in questa città dice, ah ma to guarda, non è una città dove si segnalano le buche solo, ma dove si fanno delle cose che vanno un attimo al di là, che vanno anche veramente nella vita delle persone, nel trovare lavoro. E quindi abbandoniamo un attimo questa, magari anche comprensibile perché c'è una grande esigenza del fare, questa psicosi dell'avere degli oggetti concreti, e se, diciamo qualcosa sulla sperimentazione. C'è quindi un lavoro abbastanza lungo di comprensione, di relazione con comunità, le persone, il concetto di gente è troppo vago, dobbiamo dividerlo in tanti pubblici, quindi c'è un lavoro lungo da fare. Sì, c'è un lavoro lungo e importante che secondo me va preso per gradi. Noi siamo partiti dagli studenti perché era facile, siamo andati ai cittadini del comune interessati a certi tipi di servizi, l'idea è di andare su cose, stiamo già provando ad andare su cose tipo comunità critiche, no? Tipo utenza debole, no? Questa è una parte molto importante dove le sperimentazioni possono anche essere un attimo critiche, no? Quindi andando per passi, andando per comunità distinte, noi crediamo che riusciamo pian piano a raggiungere quell'effetto molto importante, molto globale, però non è una cosa che si fa dicendo, ah sì, diamo il cellulare ai 15.000 persone che vivono, che ho i 150 che vivono, 150.000 che vivono a Trento, è una cosa che va fatta con molto grande salis. Per questo per i nostri progetti ci è dedicata proprio una parte a questa parte di creazione e coinvolgimento delle comunità. Quindi quello a cui dobbiamo un po' prepararci, ed è bene prepararsi perché potrebbe creare un certo sbandamento, è che abbiamo avuto un primo periodo esplosivo, un po' pirotecnico, e va bene perché crea entusiasmo di Smart City. Adesso dobbiamo entrare in una seconda fase che deve essere per forza meno spettacolare per i prossimi tempi e deve andare ad aggredire delle cose che non è facile smontare. Quindi Potrebbe crearsi una situazione in cui si dica: beh, ma qui in fondo non è successo niente, lasciamo perdere. No, è un po' tipico, sono d'accordo con lei, ed è un po' tipico un po' di tutte le nuove tecnologie o grandi idee, no? C'è un momento molto di fuoco d'artificio, l'intelligenza artificiale, se ci pensiamo, no? Si doveva fare l'uomo intelligente e così via, poi si è visto che in realtà si è andato su problemi seri. L'intelligenza artificiale ha fatto le finestre che adesso usiamo tutti i giorni, ha fatto gli ammortizzatori delle macchine da corsa con la fuzzy logic, no? Con la logica non precisa, tutte queste cose. Quindi questa è una cosa un po' tipica delle nuove idee, delle nuove metodologie. Io credo che siamo, come diceva lei, proprio giunti nella fase in cui basta fuochi d'artificio, il mobile che si fa tutto, ma cosa serve veramente di questa cosa qui, di questo mobile? Cos'è che serve veramente per migliorarci la vita? Un po' meno fuochi d'artificio, un po' più problemi reali da risolvere. Bisognerà riuscire anche a comunicare questa transizione. Sì, altrimenti finiamo un po' in quella crisi. Cioè, l'intelligenza artificiale ha avuto il momento di crisi in cui diceva: di grande buio. Adesso sta ritornando con le sue tecnologie in tantissimi dei programmi, magari un po' nascosta, e così anche bisogna stare attenti a non creare momenti di buio sulla civiltà intelligente. Già si sente un'idea di cambiare nome, no? A Smart City si dice Urban, si parla di Urban e così via, proprio perché secondo me siamo in quella fase un attimo critica. Però io credo che se noi abbiamo degli esempi forti, questa fase la riusciremo a superare. Bene, grazie. Grazie a lei. Un lavoro un po' lungo e auguri. Grazie mille, ce la mettiamo tutta. Grazie a Federico Pedrocchi e a Paolo Traverso, direttore di Trento Rise. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.